le macchine, i vestiti, gli orologi, le donne essere invidiati oggi, i nuovi clienti del nuovo Maharaja, il club, noi VIP già, lo spaccio per le Nike, le felpe, le marche, la gula, la gella, nostra madre che urla, non lo fa, si faccia tutto che il potere andrà, non lo si fa, non si va a lavorare per una misera paga, chissà, sotto il balcone della donna urla amore, tipo Twilight, la sua verginità da rispettare, togliere il fumo tra gli amici, la piazza, il gesto d'amore per Letizia, farsi a tutti i costi rispettare, VIP di tutti i tipi nel locale, VIP di tutti i tipi nel locale. Questa erba è un fiore da tirana, la coca a perla, se non sai ancora come fare la grana, la piazza, lo spaccio, tutti da Copacabana, i motorini, la piazza, i pali per la pula, la tana da arredà, i soldi, la fama, la vodka che vola sul bancare. La serietà, l'unico modo per il rispetto, levare il fumo, per il ciondolo costato un botto, lo sgamo, più della paga di un operaio, era chiaro che spacciavo. Mia madre ti urlava, mo ti fai la galera e ti torni pulito. Mia madre che punta il dito, i soldi, lo sgambo, il balcone dove ti urlavo ti amo. Ti sbatti il fumo alzato per il privé nel locale, le donne essere invidiato, la macchina, il posto, il tempo perduto dopo aver lavorato come uno schiavo. Ora togliere il fumo e più ne alzavo, più nel club mi inducavo. Le macchine, i vestiti, gli orologi, le donne essere invidiato oggi, nuovi clienti del nuovo Maharaja, il club, noi VIP già, lo spaccio per le Nike, le felpe, le marche, la pula, la cella, nostra madre che urla non lo fa, si faccia tutto per poter entrare, non lo si fa, non lo si fa per lavorare, per una misera paga chissà. Sotto il balcone della donna urla amore, tipo Twilight, la sua verginità da rispettare, togliere il fumo tra gli amici, la piazza, il gesto d'amore per Letizia, farsi a tutti i costi rispettare, VIP di tutti i tipi nel locale, questa erba un fiore da tirana, da coca perla, se non sai ancora come fare la grana, la piazza, lo spaccio, tutti da Copacabana, i motorini, la piazza, i pali per la pula, la tana da arredare, i soldi, la fama, la vodka che vola sul bancale. La serietà è l'unico modo per il rispetto, levare il fumo, per il ciondolo costato un botto, lo sgamo, più della paga d'un operaio, era chiaro che spacciavo, mia madre che mi urlava, quante fai la galera, e torni pulito, mia madre che le punta il dito, i soci, lo sgamo, il balcone da dove ti urlava ti amo. Ti sbatti il fumo alzato per il privé nel club, le donne essere invidiato, la macchina, il posto, il tempo perduto dopo aver lavorato come uno schiavo, ora togliere il fumo e più ne alzavo, più nel club imbucavo. Più nel club mi imbucavo, e più ne alzavo, più nel club mi imbucavo. La serietà, l'unico modo per il rispetto, levare il fumo, per il ciondolo costato un botto, lo sgamo, per più della paga di un operaio, era chiaro che spacciavo. Mia madre che mi urlava, mo te vai a galera e torni pulito. Mia madre che punta il dito, i soci, lo sgamo, il balcone. Da dove ti urlavo ti amo, sul balcone, da dove ti urlavo ti amo, il balcone, da dove ti urlavo ti amo.